Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla anni... bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, fili del cazzo, posso, quello non che non posso farlo, non posso ma farlo. Ma se non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai Mario. A fare in culo tu, ma pirla. Non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille! Ma perché sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Fare naturalmente una grande prima serata in cui ci sono tutti i leader politici, naturalmente Salvini, Meloni, Zingaretti, Conte, prima tutti i leader naturalmente con il vaccino quello regolare, poi naturalmente arriva Renzi che pensa che gli verrà inoculato il vaccino naturalmente e invece... ci sarà un prodotto fatto in Russia, naturalmente, e a iniettarlo sarà il professor Savona, naturalmente. Poi si vedono gli effetti del vaccino sbagliato! E questo è un nuovo grande filone, nuova grande trasmissione, naturalmente, bellissimo! Mi ha cacciato dalla Rai, naturalmente! Tre siringhe, naturalmente, la gente da casa sceglie, naturalmente. Ci sarà un piccolo trucchetto come nella piattaforma Rousseau, ovviamente alla fine la sceglierà ovviamente quella sbagliata, il pubblico da casa, ovviamente, naturalmente. E verrà iniettato questa pozione molto letale, naturalmente. Si seguirà poi la vita di questo leader di Italia Viva. No, non più viva, naturalmente. Morta, naturalmente. Mi ha cacciato dalla Rai, lo sapete, naturalmente. Molto grave. I politici hanno il diritto di essere vaccinati per prima. Se si salvano, il vaccino è valido. Se invece muoiono è salvo il paese. Non devi essere terrorizzato, non devi essere terrorizzato da questo virus. Se hai la mia età, io ho stato di salute. Non devi essere terrorizzato. Il tuo stato mentale, no, di salute. Oh, ma se Gottardo se vuole pigliare il Covid, ma sarà libero di farlo? Oh Parenzo, ma te la vuoi fare una magnata dei cazzi tua? Ma è possibile che devi fare sempre umagna saraca? Ma non rompeli i coglioni, fallo fa e poi ce lo racconta, no? Mi voglio vedere il Covid per portarlo alla radio. Ma non è un ospite, non è il Brasile, non è un ospite, cazzo! Beh, in questo momento storico, oggi più che mai è quasi un imperativo morale augurare a Gottardo di prendere il Covid. Gotta, col cuore proprio. Ma vattene a fanculo, credeva. Caro Parenzo, è inutile dirti quanti messaggi di insulti ho ricevuto nei confronti del signor Gottardo. È inutile dirtelo questo qua. Tranne uno solo, quello che abbiamo messo proprio nella copertina di questa trasmissione, naturalmente. Ripeto la frase del Gottardone di ieri sera. Gottardo, due punti, voglio prendere il Covid per fare sostanzialmente uno show radiofonico. Così lo porto in radio, come fosse un ospite, come fosse un talent, come fosse un protagonista. Il collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera amici, la notizia del giorno sia la manovra da 40 miliardi entro Natale, scoppia il caso della giù ovviamente il microfono, perché noi non vogliamo le notizie normali come se le dicesse una qualsiasi trasmissione. In collegamento da Padova, la pietra dello scandalo, signor Alberto Gottardo. Ma perché la pietra dello scandalo? Calma, ci sono due ore per discutere. Ci sono bisogna, due ore. C'è da discutere. Terrorizzare. C'è da chiedere scusa, no, da discutere, da chiedere scusa ai parenti dei morti. A parenti dei morti c'è da chiedere scusa. Sei David, lui dice David Parenzo. Lui dice che vuole chiedere, ma secondo voi è normale uno che dice che vuole prendersi il Covid per portarlo in radio? Voglio dimostrare, per portarlo in radio. Dimostrare. Dai, ma vergognati, sì. Vorrei dimostrare cosa? Devi cagarsi addosso. Che sei, ma, tu hai la mia stessa età. Ma nessuno si caga addosso, è pericoloso. Non devi essere rispetto così per le persone che sono morte di diverse età. Vedo che non mollate, vedo che non mollate su questa discussione. Io però voglio partire con il signor De Luca, il governatore del mondo, il quale vuole da solo abolire Natale e Capodanno. Vuole abolire, ha ragione, vuole abolire. Come c'è da abolire? È una giornata come le altre, stiamo a casa, mangiamo Natale e Capodanno. Sei chiaramente di un'altra parrocchia, è normale. Ma no, è normale. Anche Capodanno, Natale è normale. Ma cosa vuol dire Capodanno? Cosa fai a Capodanno? Niente, sto a casa con Natale, figli, Capodanno non esistono, dice De Luca. Lo vuole abolire, l'abolizione sì, da parte di De Luca. Ma no, quest'anno solo, non è abolito. Uno lo fa in maniera ridotta, dai. La mia opinione è che dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le spinte demagogiche. Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini che quest'anno Natale, Capodanno non esiste. Esatto. Non esiste. Devono essere giorni di raccoglimento familiare. Ma raccoglimento, che vuol dire raccoglimento? Devono essere giorni di raccoglimento religioso. Sì, raccoglimento. Ma non possono essere i giorni delle feste normali. Altrimenti andiamo al disastro. Decidiamo se ci sarà un'ecatombe oppure dimmi. Ma questo qua, tra una diretta e l'altra come Fidel Castro, senza mai nessuno che gli fa una domanda, qualche posto in terapia intensiva lo procura per i suoi concittadini? Ma questo cosa vuol dire questo? Perché la Campania è uno dei posti in Europa con meno posti in terapia intensiva. Si può dirlo o si continua a parlare di lanciafiamme? Decidiamo se ci sarà un'ecatombe oppure no. Perché la dobbiamo dire per forza ecatombe. Stupidaggine? No, non è una stupidaggine. Non ci saranno i posti in terapia intensiva. L'ecatombe viene utilizzata, l'ecatombe. Cioè decidiamo nell'arco di una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un'ecatombe a gennaio oppure no. L'ecatombe. Mi auguro che sia chiaro il problema che è di fronte al nostro paese. L'ecatombe. State evocando l'ecatombe. Non c'hai gli ospedali che funzionano, De Luca, è quello il problema. L'Italia altro, altro che due trick track che tirano. Allora, a un certo punto il governatore del mondo se la prende con gli ospedali privati del nord che fanno la pubblicità sugli autobus di Napoli. La cosa è abbastanza comica. Beh, anche questo è divertente. Che cazzo vuol dire? No, è divertente. Ma perché uno non può fare pubblicità? Non può fare pubblicità a un ospedale per fottere, fottere i clienti, barra pazienti. Gli ospedali qual è il privati problema? Del nord intanto funzionano a differenza di quelli della Campania. Facessero gratuitamente alcuni servizi che lo Stato non riesce ad erogare. Sentiamo De Luca, adesso la butta su incaciara su sta cosa che non capisce nessuno. Dai, Come? Devo registrare un episodio vergognoso che si è verificato, diciamo, in queste ore. Che è successo? Abbiamo registrato una campagna pubblicitaria. Certo, ottimo. Qual è il problema? Che ti fa schifo la pubblicità? Sui pullman che circolano a Napoli. Sì. Una campagna pubblicitaria dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Beh, certo, assolutamente. Ottimo. Ecco, vi faccio vedere questa immagine. Sì, non la possiamo vedere. È un'immagine della pubblicità dell'Istituto Nazionale dei Tumori su un pullman di Napoli. Falla vedere, scusa. Con cui pubblicizzano. Non vuoi farla vedere, vedi? L'Istituto dei Tumori di Milano e invitano i nostri concittadini ad andare a Milano a farsi le diagnosi. Beh, certo, ma scusa, ma non ho capito, è il marketing. Ma è normale, no? Una persona. Gli ospedali con le formiche? Sai, gli ospedali con i malati con le formiche? È logico che uno va a Milano. Non è che tutti gli ospedali con le formiche. Adesso prendetela pure con gli ospedali di Napoli. È capitato o no? Non è che un caso fa la storia, mamma mia. Questo è Gottardo, però. Questo è Gottardo. Gli ospedali tutti con le formiche a Napoli. Ma guarda che è incredibile. Fai una gaffa al giorno. Perché? Perché fai una gaffa al giorno? Ci sarà una ragione. Sono ormai al limite. A me dispiace perché gli voglio anche bene. Non voglio più litigare. Ma è pazzo ormai. È pazzo. Dai, ma uno può sostenere in una radio: voglio prendermi il COVID, così lo porto in radio come ospite. Ma ragazzi, ma è tollerabile? Confindustria, chiudete, ma non lui. La trasmissione tutta, ma non solo lui. Lui non ha senso. C'è un altro. Lui non rimane il danno. Chiudete tutto. Per piacere, senti, governatore. Cari nostri concittadini, siamo di fronte ad un ennesimo atto vergognoso di speculazione sulla pelle dei malati. Sì, ma non è la pelle dei malati. È giusto il caso di ricordare che abbiamo a Napoli il principale istituto di cura dei tumori d'Italia. Sì, ma perché la che gente... è l'Istituto Pascale. Beh, famoso che è una eccellenza nazionale, europea e mondiale. Non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte d'Italia. Sì, però io voglio fare una piccola domanda. Se c'è una migrazione verso il nord di pazienti, ci sarà un cazzo di motivo? Ha ragione il signor Gottardo. Sarà cattiva stampa, sarà quello che vuoi. Lui ha fatto un esempio di un caso singolo, d'accordo? Ma ci sarà un motivo, no? Se uno preferisce andare all'Istituto dei Tumori di Milano piuttosto che al Cardarelli o da altre parti, ci sarà una minchia di motivo o no? Oppure siamo pazzi noi? Oppure c'è il complotto del nord? Beh, anche perché le infrastrutture, i servizi, dai, le su, cose, ragazzi, magari fermola, un po' complessivamente. Fermola, poi passiamo ad altro, che mi sono già rotto i coglioni. Vogliamo la grande battaglia. Fusaro, Francesco da Firenze. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Cruciani e Gottardo di merda, avete rotto il cazzo per 5 mesi che volevate tornare alla vostra vita di prima, eccetera, eccetera. Adesso che c'è il vaccino che ci fa tornare tutto come cazzo era prima, rompete i coglioni. Fatevi il vaccino e fatemi tornare a vivere la mia vita di merda. Gottardo, sei un morto di fama. Dovresti riascoltare le cose che dici, così forse ti renderesti conto che sei un coglione. Sapete invece che una regola fondamentale in questo mestiere è non riascoltare mai nulla. Credo, ma se no io riascolto sempre. Ecco, infatti peggiori. Peggiori. Non riascoltare mai niente, cancellare tutto. A me fa orrore quando vai in replica. No, ma una volta mi è capitato che ero in macchina a dire che si ascoltava il meglio di. Sì. Ho chiesto di cambiare. Ero con il peggio di. Ero con Natale Tocca. È terribile. No, non le sovrapposizioni. Le cose terribili che vengono fuori da questa trasmissione è riascoltarla mi si accappona la pelle. A proposito di chi vuole chiudere questa baracca, c'è un signore che segue la ruota parenziana. Si chiama Bernardelli. Tu lo conosci benissimo. È uno di Milano, Bernardelli. Detto la Bernarda, me l'ho detto tu. Detto la Bernarda. No, è proprietario di alberghi. Proprietario di alberghi a Milano. Ex leghista. Cavalieri di Milano in Piazza Missori. Sì, ricordo, sì. Indipendentista. No, ho sempre pagato quando sono andato. Aspetta, quindi non c'è Marchetta. Oh, sentite, ieri sera cosa è successo. E chiedi di chiudere la trasmissione. Ma senti cosa è successo al signor Del Debbio. Aspetta. Dove si firma? Aspetta, senti cosa è successo al signor Del Debbio. Questo signore qua è stato chiamato perché ha ospitato delle influencer nel suo albergo. Ne è nata una polemica, ma chi se ne frega di questa polemica. Dopodiché, interpellato su codesto fatto, il signor Bernardelli, forse in preda, non lo so, dico io, ai fumi della che cosa, eccetera, eccetera, ha parlato di tutt'altro. Si è messo a dire le cose su Del Debbio, sul signor Toti. A me piace molto Del Debbio. Mi piace molto Bernardelli, lo conosco da tanti anni. Senti Bernardelli, senti. Hanno fatto molto discutere alcune feste organizzate negli hotel di lusso e poi mi collego con il proprietario di questo hotel, che dovrei aver già collegato da qualche parte, vediamo un po', eccolo lì, Roberto Bernardelli, buonasera. Ciao Del Debbio, complimenti per la linea, ciula se sei invecchiato, sei non ricoverato in appartamento, perché un governatore della Liguria aveva detto quelli di una certa età chiusi in casa. Come senti, mai si avviene libero? Bernardelli, saluto vedo... tutti i tuoi ospiti. Io sono, mi lasci parlare. Sono non incazzato, incazzatissimo. Sì. Incazzatissimo anche con uno dei tuoi ospiti. Con me, è vero. Che è questo buonasera. Giornalista Cruciani. No, sono incazzatissimo con Cruciani, che dirige una trasmissione. Dirige. Che è una sconcia, una schifezza. Vero. Ma cosa c'entra? Ora? Dai, su, io sono iscritto. Ma cosa c'entra? Lasciami parlare. Ma no, lascio parlare un tubo. Avanti col servizio e via il microfono. Non pagherò più a Salombarda. Basta. Basta così, che Bernardelli. Perché è ubriaco? Non lo so. Arrivederci, Bernadette. Cosa avete fatto? L'avete cassato, chiuso? L'avete chiuso. L'abbiamo chiuso. Ma che chiuso, libertà è? L'avete chiuso. Io non comando. L'avete chiuso. L'hanno chiuso. Libertà, libertà, e l'avete chiuso. No, io l'avrei lasciato parlare. Ma una cosa indegna. Parlano i peggio razzisti, dice una cosa Bernardelli e gli chiudete il microfono. Sconcio, ma... schifezza e vomito. Sconcio, schifezza e vomito. Posso dire la verità, caro Bernardelli, mi metto una e abbiamo anche qualche difetto, si potrebbe aggiungere, e c'è anche qualche difetto in questa trasmissione, dai, esatto. Ma che cazzo ce ne frega? Ma che vuole sto Bernardelli? Poi dice che non vuole più pagare la sua quota ad Asso Lombarda. Questo è un ma problema, chi se ne frega? Ce ne sbattiamo i coglioni delle quote che devi pagare. Ce ne sbattiamo i coglioni, caro Bernardelli. Invece. Chi se ne frega, fa il cazzo che vuoi. Una roba incredibile, guarda. Li brandi. Ma... Sì, ma dopo. Per te finirà la pacchia. Oddio, anche per me in quel caso. Li purtroppo, brandi però... contro Donzelli. Senti, Fratelli d'Italia, signor Librandi. Signor Librandi, tuo nipote andranno a pulire i cessi degli africani. Così. Donzelli signor... è dei Fratelli d'Italia, Donzelli, no? Donzelli. Fratelli d'Italia. Sì, secondo, certo. L'Africa è il futuro, l'Africa è il posto dove il PIL cresce il 5%, e i tuoi nipoti, caro Donzelli, andranno anche loro con lo spick e span a pulire i cessi dei neri. Intanto baci te, Librandi, vai, se poi ti piace tanto l'Africa puoi andare a pulire i cessi, baci pure te prima di pensare ai miei nipoti. I tuoi nipoti andranno a pulire i cessi degli africani, visto che ti piace così tanto. Ma la cosa è incredibile, questo gli ha risposto signor Donzelli, vai. Detto questo, ti voglio dire che tu hai parlato del Covid. Io non ho mai visto in un ospedale un immigrato in una sala rianimazione. Come mai? Cioè, loro non si ammalano, non vanno in sala rianimazione, peraltro facendo perché non siamo in grado di curare gli italiani, si figuri se c'è qualcuno che va a raccogliere quei poveri. Perché loro sono più forti di noi. Loro sono più forti di noi, i neri, che vengono qui, non ce n'è uno in sala rianimazione. Librandi, questo è il razzismo di Librandi, che sono più forti, hanno un DNA più forte del nostro. Cioè, questo ma che DNA, cos'è? No, però... razzismo è un'altra parola, più grande di Librandi. Però è vero che questi facendo i viaggi della speranza sono quelli che ad esempio hanno più resistenza Antonio fisica. Antonio da Crotone, voglio dirvi una cosa, ragazzi. Il sindaco, mi spiace che il sindaco di Bergamo, Gori, che stimo, abbia tolto, si sia accodato a questa roba qui di togliere quei manifesti dell'associazione Pro Vita, quella prenderesti mai del veleno, stoppa la pillola abortiva RU486, mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo. Ovviamente è una campagna controversa, questi sono anti-abortisti, ma perché devi togliere i manifesti da una città? Questi pagano per avere uno spazio, fanno una campagna contro l'aborto. Fare una campagna contro l'aborto è legittimo, io mi batto a favore dell'aborto, voglio la pillola in tutti gratis sempre. Dopodiché perché devi togliere? Perché li devi far togliere? Qual è il problema? Beh, sono molto violenti. Ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè, uno deve essere aperto violenti, a queste cose. Ma che violenti, violenti, ma smettila. Questo sono... è contro la libertà di espressione. Antonio da Crotone, uno deve far togliere. Pago? Che cazzo vuoi? Faccio una pubblicità. Non è che uccidono qualcuno questi cartelli. Dai, su, Antonio, dimmi. Giuseppe, ciao. Passami a Gottardo. Sta qua, Gottardo. Passami qua. A Gottardo. Intanto c'è questa. Sta qua. Dimmelo. Albert. Dimmi. Alberto. Dimmi, ciao. Sta qua. Stavo ascoltando la tua battaglia contro le droghe, no? Altra cosa molto controversa, Antonio, di Gottardo, che sostiene che tutte le droghe sono sostanzialmente uguali, uno passa facilmente dalla marijuana all'eroina. Mi concedi un minuto e ti dico la mia esperienza. Vai veloce, Antonio, però veloce, non ci cagare il cazzo con la tua esperienza. No, però parla pulito con me, pezzo di merda. Io parlo come mi pare. Tutto si scatena, è tutto degenerato. Io parlo come mi pare, non mi rompere i coglioni, non mi fare bella Bernarda, non mi fare la Bernarda, non mi fare la predica della Bernarda. Dai, Crux. Tutto degenera subito. Io Alberto, ho fatto per 5 anni il bagnino sulla Costa Ionica. Che ti in sei fatto? Che ti sei fatto? No, questo... io non mi sono fatto di niente. Ma questo che ce ne frega a noi che hai fatto il bagnino? No, ma ti rendi conto che uno discorso... fammi finire, cazzo. Ho capito, dai, ma che c'entra il bagnino? Ti stavo dicendo sulla mia esperienza che quando io stavo sulla spiaggia a lavorare, i turisti giustamente si volevano divertire. Vabbè, allora, e mi cercavano giustamente la marijuana, l'erba. Basta, volevano l'erba perché sanno che in Calabria fanno l'erba buona e volevano l'erba. Quindi il discorso è questo qua. L'ipocrisia di questo paese di merda, sai qual è? Qual che è? Alberto non si può manco immaginare, io sottoscritto, a quanti sbirri gli ho portato l'erba che erano in ferie con la moglie. Ma Alberto mio, adesso questa, Alberto mio, dici tu, no, lo dico tu. Io, beh, lo dico io, lo posso uno, dire. Uno sbirro così cretino, uno sbirro così cretino da una bambina. No, no, no, non fare l'ipocrita. Non fare Antonio l'ipocrita. Da Crotone, a parte non si chiamano sbirri, ma si chiamano forze dell'ordine. Fermo lì, sbirri è molto, molto denigrato. Però sti cazzi, qui si può dire. La zanzara. 8 figli, ha detto? 8 figli, sì. Signora, ma mi passi la mamma un attimo? Signora, sì, ma è stata dura, eh? 8 figli non è una roba semplice. Ma è una vera potto fare pure una dot. Povero Gottardo, stai sbroccando. Guarda, ti auguro che il tuo desiderio sia esaudito. Ti auguro di prendere il Covid e io mi auguro che tu sia il terzo dei 2 su 3. Beh, questa qui che la marijuana ti rende iracondo, Gottardo, è fantastica, veramente una grossissima novità. Vaffanculo. Ricordati, Gottardo, ricordati che noi fumatori di marijuana siamo sempre intorno a te, quello che ti serve il caffè, quello che ti versa il vino al ristorante, quello che ti vende il giornale, siamo tutti fumatori di marijuana, ci sono 6 milioni di consumatori in Italia, il 10% della popolazione, e se consideriamo i bambini e i vecchi, vuol dire che praticamente 1 su 4 di quelli che incontri fumano marijuana. Attaccati al cazzo, certo, Gottardo, attaccati. Certo. Quello che ti domanda l'euro per prendere il sei treno, per circondato, esempio, sei circondato da fumatori di marijuana, favore, da fumatori di erba, circondato da coglioni che ascoltano questa trasmissione e scambiano una libertà per un diritto. Ma che scambiano la libertà per un diritto? Che cazzo dici? Che cazzo vuol dire scambiano la libertà per un diritto? Non è un guarda diritto che l'altro drogarsi, ha il telefono. Guarda quell'altro che ha il telefono. Guarda quell'altro che ha il telefono. Mi volete mettere per favore il messaggio del Grillino Palermitano, che ha perfettamente ragione. Il Grillino Palermitano, messaggio del Grillino Palermitano su Parenzo e su Gottardo. Messaggio perfetto del Grillino Palermitano su Parenzo e su Gottardo. Adesso fra poco lo peschiamo, non ti preoccupare. No, no, ha perfettamente ragione. Perché guarda questa trasmissione. Guarda, ex, quello che vuoi. Guarda questa trasmissione. Molto bene, molto bene. Sì, ottimo, può darsi, ottima, poi era, qual è il problema? Non ho capito che uno deve restare sempre fermo. No, non ho per carità, ottima mi considerazione. Deve dare sempre ragione, non ho capito. Ottima, mi deve dare sempre ottima ragione. Considerazione, ottima. Comunque, okay, riprendiamo dallo scontro Librandi-Donzelli. Librandi-Donzelli, vai. Dato che questi immigrati sono più forti, ci possono aiutare, possono fare i barellieri, gli infermieri, in più a fare il PIL e a pagare le tasse, perché loro fanno il 10% del PIL italiano, pagano le tasse, anche il tuo stipendio da deputato, pensa a te, cioè tu li odi e loro pagano il tuo stipendio, la tua pensione. Quelli che abbiamo visto in questi servizi ammassati non pagano le tasse né a me né a te. Il futuro è l'Africa. Vai, Donzelli. Svegliati, capito? Che ora... Io sono. Vai in Africa, saremo tutti felici, Librandi. Poi dice che dobbiamo portare rispetto ai Rom perché hanno combattuto la seconda guerra mondiale con noi. Ma beh, ragazzi, questo ma, anche ma, è un ma, argomento ma, puttanata, interessante. Dai, ma cosa vuol dire? Dai, su, dai. Santa, senti quest'altro. Credo invece che bisogna fare un'operazione, come stavo sentendo in studio, di integrazione. Rom, all'improvviso anche loro si parla di collaborare. Rom, sono andato anch'io tante volte nei campi Rom. Però noi gli dobbiamo portare rispetto, perché i Rom hanno combattuto con noi nell'ultima guerra mondiale, sono stati fucilati con i nostri partigiani e si meritano tutto il nostro rispetto. I Rom hanno un quoziente intellettuale più alto di qualche deputato di Fratelli d'Italia. Ma c'era la Brigata Rom? Questa... No, Brigata Rom non ma c'era. Ma confuso con Rom? Non c'era. Sì, no. Confuso con Rom. Sì, bravo, bravo, questo è giusto. Beh, per esempio Donzelli, gli vorrei dire che molti Rom probabilmente hanno un quoziente di intelligenza molto più alto di qualche deputato di Fratelli d'Italia, perché loro lasciamo perdere queste robe. Senti l'altro, lasciamo perdere queste robe, però lasciamo perdere. Se prendi Gio Formaggio, per esempio, un Rom è molto più intelligente di Gio Formaggio. Adesso, senza ombra di dubbio. Anche se non altro perché loro ogni giorno devono inventarsi come vivere, mentre un deputato ha il suo stipendio fisso. No, ma No, no, ma scusami, i rom invece ogni giorno devono inventarsi come andare. Dici, sono, dei, sono delle partite IVA alla fine. Sono dei liberi generis, sono l'IVA. Partite IVA senza l'IVA. L'IVA. Sono partite. Solo partite, solo partite esattamente, ragazzi, senza l'IVA. Però tu prova ogni giorno a inventarti di andare nei cassonetti e capire come reinventare le cose che noi scartiamo. Ma forse solo nei cassonetti. Cioè, le economie non di è che scarto. Rovistano solo nei loro, cassonetti. Loro lavorano sulle economie di scarto. È molto interessante invece. Guarda che quello che appena descritto è quello che fa Cruciani con la zanzara. Tra l'altro, va nei cassonetti della società della radio, e tira fuori bravo, il peggio. Esatto. È più sporco, ragazzi, dei rom, è il rom che conosco della radio, io, ragazzi, assolutamente. Disegnalo questo rom con i capelli più puliti di Cruciani. Che, il qui presente signor Gottardo che ha appena detto che Gio Formaggio ha un quoziente di intelligenza inferiore a un rom. Beh, a qualunque ha lavorato con il signor Formaggio. È stato mio ospite in radio molte volte. Lasciamo perdere. Le cartuccelle di Cruciani. Io mi siedo in poltrona e mangio il popcorn e assisto. Siete ricattabili. Siete due persone ricattabili. Questo è il tema. Siete due persone ricattabili. No, io sono immacolato. I quozienti intellettivi non dipendono dall'etnia o dalla razza, continua a essere razzista, caro Librandi. Il problema è chi rispetta le regole e chi non le rispetta, chi loro, vive in campi donne e chi vive pagandosi un affitto, siamo chi manda figli a fare e chi manda figli a scuola, chi vive nel rapidamente. Continua a essere razzista, però contro gli italiani, Librandi. Poi spara la cazzata, San Pietro era un rom, signor Librandi, San Pietro era un rom, ragazzi, sì, magari è anche vero, io questo non lo so. Non so, San Pietro era un rom, è il fondatore della chiesa, è il fondatore di Il problema qual è? Che chi vive in quel modo, in quelle condizioni nei campi rom, sono persone che non si vogliono integrare. Bravo. Perché la i rom che si vogliono integrare, in qualche modo ci sono cercati lavoro, hanno pagato l'affitto, hanno rispettato le regole. E il problema qual è? Che nelle istituzioni... Vi ho lasciato raccontare. Guarda tutte le pregnanze. Nelle istituzioni questa roba fa comodo. Guarda che San Pietro è un rom. Perché nelle istituzioni ci hanno guadagnato... Allora, due cose prima di tornare ai nostri amatissimi ascoltatori, come si diceva una volta, i nostri amatissimi ascoltatori, caro David. Due cose, uno un titolo del quotidiano Libero. I monopattini aiutano i criminali usati per spacciare la droga, cioè vengono usati per spacciare la droga. Da Milano alla Calabria, tanti casi di pusher e balordi trovati a bordo dei nuovi mezzi elettrici. La campagna di feltri contro i monopattini, eccezionale. I monopattini aiutano i criminali. Un'altra cosa, oltre all'articolo di Feltri, vuoi vedere che lo stupro rende assai? Sai, reiterato, lo stupro della ragazza di Genovese rende molto, lui dice che è giusto dare 5 milioni di euro, però dice di conseguenza che lo stupro rende assai. Un'altra frase ti volevo sottoporre, la signora Barbara D'Urso. Votavo per il Partito Comunista quando c'era il comunismo, ero di sinistra, ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo. Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò. Quindi a sinistra. No, a sinistra, non credo. È passata dal comunismo al luogo comunismo. Mario da Milano, no, che è sta cazzata? Cioè, Mario da Milano. Ma luogo no. comunismo. Ecco, ma mai attaccare la D'Urso, Mario. No, certo, si può attaccare, però su una cosa concreta, non su questa cazzata. Sì, comune, ma dai, Mario da Milano. È un conservo di luoghi comuni. Una programma. Televisione popolare. Il momento cui più alto è quando vai ospite tu, Cruciani. Ma non dire cazzate, su, Gottardo, non dire cazzate. Sei stato ospite anche tu e sei stato. Ti sei catapultato come una fionda. Catapultato a fionda per andarci. Mario da Milano. Sono stato ospite per colpa tua, Cruciani. Mario da Milano, una cosa incredibile, guarda, incredibile. Ospite per le stronzate che dice, certo, non c'è dubbio. Lavoro in un ospedale di Milano. Sì. Volevo dire a Parenzo che il livello degli ospedali del sud d'Italia è infimo. Tu hai la radio accesa, non ho difeso gli ospedali del sud, ho detto che al sud ci sono un sacco di eccellenze. De Luca che si stupisce. Al sud ci saranno anche le eccellenze, gli ospedali. Sì. Beh, no, ci saranno. Letteralmente schifo. E il problema non è soltanto quello dell'episodio delle formiche, ma no, in giro per l'Europa, in giro per l'Europa noi medici. Ma ragazzi, ma gli ospedali della Calabria, ma gli ospedali della Calabria, se lasciamo perdere Napoli e la Campania, che pure. Ah, vabbè, cioè, ma cioè, il fatto che la sera vengono distribuite le pizze in barba a qualsiasi regola e norma igienica. Basta guardare Striscia la Notizia, non c'è sì, bisogno. Sì, certo, assolutamente. Caro Mario, ci sarà un motivo per cui la gente viene qua a ricoverarsi, no? Piuttosto che restare al sud. Ci sarà un cazzo di motivo. Dunque, De Luca, che cosa si sorprende dal fatto che uno, che l'Istituto dei Tumori faccia una campagna per attirare i pazienti? È normale che no, sia così. No, a me non sorprende, io sono perfettamente d'accordo. Roberto da Milano, ciao Mario, ciao. Roberto da Milano, vai Roberto, dimmi. Pronto? Dimmi Roberto, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Io volevo ritornare sul caso di Genovese. Sì, dimmi Roberto, dimmi. Che cosa c'è da dire ancora su Genovese? Cioè, ci sono tante cose da dire, dimmi. Perché hanno rotto un po' il cazzo sti napoletani che sono che c'entra i napoletani? Che c'entra i napoletani col caso Lei Genovese? Lei è un po' una persona confusa, sa? Se, scusi se glielo dico, se mi permetto, scusi. Lei è un cretino Genovese, confuso. Genovese, il fondatore di Facile.it. Sì, ma cosa vuoi? Cosa che c'entra, c'entra con Napoli? Con Napoli? Perché è napoletano. Ma che c'entra che è napoletano, imbecille? Ma è napoletano. Ma è sei un coglione se tu, e tu, se tu quello è napoletano, ma sei tu sei un sei. Coglione. Ma è chiaro? Sicuro, sei certificato, un coglione. Certificato. Ma questo è il nostro ascoltatore. Sì, vabbè. Scusi, sì. Ma scusi, lei si fuma le canne ogni tanto? Ma questo non no, si fa. No, questo, no, questo è scemo. No, non fumo le canne. Ah, ma cosa però, c'entra? Cosa c'entra che era di origine napoletana? Chi se ne frega? Cosa c'entra? Sì. Mica è una questione etnica. Ma è nel sangue, ma chi sei? Ma chi l'ha detto? Sangue, ma cosa dici? Gli stupratori sono ovunque. Di dov'è lei? Lei di dov'è? I cocainomani sono ovunque. Lei è un cretino di dove? Geolocalizziamolo. No, lei di dov'è? Dice di ma essere. Parenzo, intanto tu vaffanculo che ti metti sempre sulla difensiva. Grazie. Lei di dov'è esattamente? Roberto, il fatto che Genovese, le origini di Genovese, chissà perché non ne ha parlato nessuno, ne parli solo tu perché sei un imbecille. Esatto. Che nessuno parla delle origini di Genova. No, non parlano perché non lo vogliono dire. Sì, non lo vogliono dire che... cosa, se il cretino, sei un coglione. Nascosto questa cosa la lobby dei napoletani. Ciao, dai. Ciao. Eros da Vercelli, vai Eros, dimmi Eros, dimmi. Ciao Parenzo, ciao Gottardo, buonasera. Intanto io sono abbastanza incazzato, primo con questo che dice buonasera, non si sente una mazza come al solito. C'è un signore dell'università di non so dove, inglese come al solito, di Sheffield, questa università qua, che ci vuole terrorizzare sullo sperma, dicendo che... Scusa? Sì, ti giuro, un tizio, un andrologo dell'università di Sheffield, che sostiene, nonostante ci siano poche prove, allora che cazzo parli a fare, bisogna fare altre ricerche, perché il rischio non va escluso. Cioè, la trasmissione del coronavirus attraverso lo sperma non può essere completamente esclusa. Questo professore, che era un capo della British Fertility Society, è un cretino totale. Ci vuole terrorizzare, sì, anche parlando perché... dello sperma che trasmette il coronavirus. Una puttanata pazzesca. Per stare a più di un metro di distanza, che razza di pressione devi avere, scusami? No, ma che c'entra questo? Trasmettere attraverso lo sperma, scusami. Ma no, ma lo sperma come liquido, liquido, capito? Nel rapporto sessuale, Gottardo, sì, nel rapporto sessuale. Vabbè, sarà l'ultimo dei problemi lo sperma, scusami. E questo sostiene che non ci sono prove, sì, certo. Non ci sono prove, che ne so, se uno ti fa una pompa con l'ingoio, per dirla in maniera esplicita, sì. E ci potrebbe essere trasmissione, magari non la trasmissione via aerea, ma è evidente che prima come fa a non essere via aerea? Devo avere la tuta degli astronauti dello quello shuttle anche per vero. Non essere via aerea? Quello ma anche che roba vero. È? Quello anche ma che vero. Cazzo di roba è? Ma diglielo a questo professore, non lo dire a me, diglielo a cioè questo dell'università di sulla Sheffield. Sulla cappa aspirante della cucina finché mi fa una pompa, perché così il mio alito però, va in alto, però ma che roba è? Però nel caso del Glory Hall, se ci pensi bene, nel caso del Glory Hall non respiri, no, c'è cioè un non muro lo... di mezzo, c'è un muro di mezzo, per cui in quel caso i Glory Hall potrebbero sì, essere ci potrebbe essere trasmissione di coronavirus attraverso i Glory Hall, caro Parenzo, potrebbe essere un caso, no? È una conversazione che non mi appassiona in alcun modo. La Zanzara. Giuseppe, frate, ieri per caso guardavo la live su YouTube della vostra trasmissione. Ma onestamente, Peppi, ma sono due indegni. Due pezzi media Parenzo già da un bel pezzo che sta sempre col telefono in mano e si fa i cazzi suoi. Gottai d'ora puro, o telefono e talio telefono. Giuseppe, o mettono offline, o altrimenti dimezzalo il stipendio, caro mio, a baracca d'ora come anni tu, dimezzalo il stipendio, o posano telefono, perché non sono sul pezzo, stanno col telefono in mano e non sono sul pezzo. Bravo, tu bravo. Li interpelli e loro non sanno quello che cazzo devono dire. Così non va bene, fratello. Dimezzalo il stipendio, facci venire l'antisa, o offline e fanno a bere lo telefono che è offline. Giusto. O se no c'è di mezzo che si vende ai sero magnacci, Giuseppe. Perché mi pare a me la sammucca ne pisce la sana sana e se fanno i cazzi suoi con telefono, i sero made. Posso dirti? Invece. Posso dirti? No. Ha perfettamente, qua. Non posso dire nulla a Gottardo, per carità. Però che fa il cazzo che vuole. Posso però dire a Parenzo che ha veramente rotto il cazzo. Hai veramente rotto i coglioni. La prossima volta, guarda, quando sei a casa e sei collegato con l'usci della minchia là, io con quelle che è molto col meglio. Telefoni ci almeno lavoro. No, tu fai i cazzi tuoi. Stai io lì a grattarti i coglioni con quel golfino di merda chiaro computer, che ti porti osceno esteticamente che chiunque ti vede per agenzie. Strada ti dovrebbe sputare su quel maglione. Ti dovrebbe prendere a schietate. Giuseppe, quanto messaggia con i trans, Giuseppe. Sì, quello è sicuro. Prende appuntamento con i trans. E questa è un'altra guerra. No, vi faccio vedere con chi stavo. Con chi sta, ma tanto non hai niente. Non hai niente. Il problema è che non hai nulla. E questo è il dramma. E che siccome non hai niente, non c'è nulla da portare via. Togliamo un po' di soldi dallo stipendio di Parenzo e diamolo a Ramelli. Che sarebbe questo può essere una buona idea. Questo posso essere una cosa perché non avendo niente. Cioè, ogni volta che uno ti vede in mano con quella minchia di cellulare, come dice il grillino palermitano. Il grillino palermitano è un povero imbecille. Io lavoro con questo, a differenza sua che se usa il telefono in macchina gli tolgo dei punti dalla patente, io lavoro con lo schermo dove qui ho le agenzie per capire cosa succede nel mondo, poi ho i messaggi che mi mandano le persone che ascoltano la zanzara, e poi ho questo mini iPad dove posso leggermi rassegna stampa online subito. Facciamo per capire come gira la il mondo. Bernarda, perché io senza la Bernarda non ci so stare. La Bernardelli, Bernardelli però ricordiamo la Bernarda, detta così può sembrare una cosa alla toscana, sì, che ci fa la morale il proprietario dell'albergo eccetera eccetera, ex leghista indipendente, non so che cazzo è adesso. Ma come la cazzo? Bernarda, la Bernarda. Io la chiamo Bernardelli. Sì, io posso dire la Bernarda? Ma adesso. Hanno fatto molto discutere alcune feste organizzate negli hotel di lusso. E poi mi collego con il proprietario di questo hotel che dovrei aver già collegato da qualche parte. Vediamo un po', eccolo lì. Roberto Bernardelli, buonasera. Ciao De Debbio, complimenti. Menti. Per la linea. Ciula, se sei invecchiato, come mai sei non ricoverato in appartamento? Perché un governatore della Liguria aveva detto quelli di una certa età chiusi in casa. Come senti, mai si avviene delinquente? Bernardelli, saluto ti vedo tutti i tuoi ospiti. Io sono, no, mi lasci parlare. Sono non incazzato, incazzatissimo, incazzatissimo anche con uno dei tuoi ospiti. Con me, vero? Che è questo, buonasera, ecco, buonasera. Giornalista Cruciani. No, sono incazzatissimo con Cruciani che dirige una trasmissione che è una sconcia, una schifezza vera. Ma cosa c'entra? Ora, dai, su, io sono iscritto. Ma cosa c'entra? Lasciami parlare. Ma no, lascio parlare. Avanti col servizio e via il microfono. Non pagherò più a Salombarda. Ma chi se ne frega? Basta così che Bernardelli. Basta così. Non lo so. Innegabile. Ma cosa innegabile? Innegabile. Una trasmissione diventata ormai sì, inascoltabile. Tant'è che quando io mi capita distrattamente di riascoltarla. Aspetta, vediamo se risponde. Io stesso mi vergogno di quello che dico, ma io chiedo scusa. Pronto? Bernarda? Si parla. Bernarda? Ma tu puoi fare quella meba senza coglioni di Cruciani. Ma senti, a me senza coglioni lo dici a tuo fratello. Lo dici a tuo fratello, no? Lo capisco benissimo. Tu sei bravissimo. La testimonianza della legge Basaglia. Sì, può essere benissimo, ne sono orgoglioso. Puoi fare che cosa? Aspetta. Di merende quello scappellato. Scappellato di parole. Come si Ma io ho detto che quanto una scorretta. Ma io ho detto che ha ragione, scusa, perché Parenzo, no, però scusi, adesso vale quanto questo su scusi però caro Bernardelli, io l'ho difesa, ho detto che lei ha ragione, la trasmissione va chiusa e lei io mi attacca, ma vaffanculo, Bernardelli, scusami, no aspetta Bernardelli, fermati un attimo, fermati un attimo. Allora tu hai detto che questa trasmissione è uno sconcio. Beh, una schifezza è un vomito. No, io sinceramente Questo hai detto. Visto che la tua intelligenza va a segmenti. Sì. Vediamo se vengo un segmento buono. Vediamo. Voglio dire, tu sei in fascia protetta. vita. Sì, e chi se ne frega? Allora, sì, ma fai gli esposti, fai gli esposti, fai gli esposti. Sentire in diretta sì. il rapporto sessuale sì, tra sì, Rocco Siffredi sì, e un ottantenne sì, non me ne sì, frega un cazzo. Sì, sì, sì, sì, sì. Bellissimo Bernardelli, paghi anche per questo, paghi anche per questo Bernardelli, sei anche il mio editore di Confindustria. A me sai cosa mi rode? Cosa? Siccome io sono iscritto a Confindustria, bellissimo, stupendo, stupendo, che ti pago, certo, devi stare il tuo stipendio, certo, certo. Ma io, senti, ma io godo per questo, io godo per questo, per quanto tu sia. E no, tu no, e tu te la pigli in quel posto. Tu godi con un cazzo, tu godi facendoti le seghe. Può essere, no, anche non parli sì, così. Non parli così alla radio. Sesso virtuale. Io godo in altro modo. No, scusi, scusi, signor Bernardelli. Non parli così, scusi, però. Bernarda, scusi, Bernardelli, torniamo al fatto che lei ha ospitato nei suoi alberghi delle festine non autorizzate. No, ma chi se ne frega? No, questo non me ne frega un cazzo di questa. Ti hanno detto che sei un untore, ma a me non me ne frega. Torniamo al punto, allora, torniamo al punto. Allora, devi sapere, Parenzo, scorreggiano lo spazio, che i carabinieri sono venuti, hanno controllato, hanno fatto una riga di verbale. Parenzo, che bella figura di merda che hai fatto, però, che bella figura di merda. Allora, il conduttore di ieri sera a cui abbiamo avuto la partita, abbiamo partecipato. Sì. Non hai partecipato, non hai partecipato. Ti hanno cacciato, ti hanno cacciato a pedate nel culo. Ti hanno cacciato a pedate nel culo. Sì, espulso. Fuori! Scusami, allora, vuole capire la 25 kg che ha perso, 20 li ha persi di cervello. No, non ti permetto, non ti permetto di attaccare del debbio così. Ma figura, diventi di cervello che ti fa un culo. Ma tu in democrazia. No, sei qua perché te lo permetto io, perché te lo permetto io qua di parlare nella radio in cui paghi anche tu. Ma però io ti sfido. Siccome sei senza coglioni, vieni da me. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Ma vaffanculo. Ma che asfalto? Ma su che cosa? Andiamo lì. No, io voglio capire una cosa. Tu ieri parlavi seriamente. No, ma non ti regaliamo gli ascolti, però. Non veniamo lì per farti fare ascolti. No, scusami. Non ho bisogno dei tuoi ascolti. Non veniamo lì. Bernarda, proprietario di alberghi e ex indipendentista, perché tu sei un indipendentista. Figuriamoci un po'. Molto più scorcio. Assolutamente, figurati, non ho paura di aver fatto un carro armato. Figurati che cazzo mi questo fai. è stato pagato, anche ha dato dei soldi per fare quel carro armato con cui volevano fare quel mezzo, quel finto colpe di sai che cosa sì, quel cannone te lo dovevamo sparare nel culo, sennò allora lo sai che è molto più osceno, è molto più osceno l'indipendentismo di tutte le cose che si possono dire in questa trasmissione, cioè essere indipendentisti. Dillo della tuo amico Savini, dillo al tuo amico Savini. Io no, ma Savini non è mio amico, diglielo tu. La battaglia ridere. Io sono indipendentista. Tu pensa a te, è molto più osceno questo di qualsiasi parolaccia che si possa dire qua. Essere indipendentisti della Padania, capito? Scusami, non ho capito, ma l'hai ritirata la tua iscrizione a Solombarda o no? L'hai ritirata o no? Ah, certo. Ah, l'hai ritirata. Sì, cioè tu non pagherai più perché c'è la zanzara. Dillo ad alta voce. Legge Bassaglia, Pecoduria. Dillo, non pagherai più a Solombarda perché c'è la zanzara. Dillo ad alta voce, Bernardè. No, ad alta voce, ma sai, io voglio fare una cosa. Sai che ho trovato? Ho trovato un europarlamentare che trasmetterà la zanzara, ma soprattutto in alcuni pezzi interessanti, al Parlamento europeo. Questo già ci siamo stati. Dovrebbero darci i soldi, visto com'è Industria, qual è, cosa dice la radio di Confindustria? Qual è il problema? Non ho capito. Cosa dice? Che godimento. Io non lo capisco, Bernardelli. Io non capisco se tu sei ubriaco oppure no. Cioè, se tu sei così oppure sei ubriaco. Non faccio uso di sostanze stupefacenti. Sono assolutamente tranquillo. Aspetta, fermo là, 30 secondi. 30 secondi. Resto, 30 secondi. Non ti preoccupare, che qui siamo coperti. Non ti preoccupare. 30 secondi e torno. 30 secondi perché questo signore qui vorrebbe chiudere codesta baracca e dice di essere iscritto. Secondo me, non è iscritto manco per il cazzo all'associazione degli industriali. È proprietario di alcuni alberghi. Ha ospitato delle influencer e hanno fatto un po' di casino. Ma su questo, al mio appoggio, non me ne frega un cazzo di questa vicenda qua. Fermo là. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La zanzara. Questa era la scoreggia vaginale. La conosci la scoreggia vaginale, Bernardelli? La... Bernardelli? No, la dovrebbe conoscere meglio il tuo amico Parenzo, visto che è una scoreggia nello spazio. Ma la conosci? Ma quella la... le conosco. Cioè, tu quando vai con le donne, se ancora riesci ad andare con le donne. Ma non stavi parlando dell'iscrizione, delle influenze, adesso che cazzo me ne frega a me del scoreggio vaginale. No, no, no, no, no. Ieri... Allora l'avete riprodotta, ma non avendola mai sentita in natura, ma non vedo nemmeno le vostre riproduzioni. Guarda, che avrei fatto fare una scoreggia normale al tuo amico Parenzo. No, è una roba, questo, è una roba che viene dal web. Per una scoreggia vaginale. Ma tu hai mai avuto hai mai sentito una scoreggia vaginale quando hai dei rapporti sessuali, se ancora riesci ad avere dei rapporti sessuali oppure no? Guarda, stai tranquillo che ne ho più di te. Ma figuriamoci, cioè figuriamoci, più di me non so quantificare, No, guarda, ne ho sicuramente più di te, stai tranquillo, questo puoi metterci le palle sul Guarda, cuore. Posso dirti una cosa, se tu vuoi far chiudere questa trasmissione, hai tutte le possibilità per fare le tue dimostranze, le tue proteste. No, come no? A me non interessa chiudere la tua trasmissione. E come no? Hai detto no, un vomito, no, uno sconcio, no, una schifezza, hai detto. Ti interessava farti invitare qui, dai, abbiamo capito. Facciamo un discorso serio. L'hai fatto solo per attirare l'attenzione, dai, per farti invitare qua. Ci sei riuscito, basta ora. Dimmi. Un attimo di discorso serio. A me la tua trasmissione, dalle 11 in avanti, dopo la fascia protetta, puoi dire sei diventato il protettore della fascia protetta. Lui è quello che vuole la fascia protetta. Ma non dire cazzate. Protetta. Ma che te ne frega? Spegni la radio se non ti piace, non rompere. Ma smettila, vai, fai le tue proteste a Confindustria, con chi cazzo ti pare, dai. Non mi rispondi. Senti, non mi interessa. Chi se ne frega, ho capito, ma ci saranno... Parlate uno per volta, mi sento. No, ma dico, Bernarda, Bernarda, ti abbiamo coinvolto qui, hai avuto il tuo grande momento di gloria, secondo me. Ma non ho bisogno di... No, fare. Scappellato, vada al Biancuro, bello. Ma perché? A quest'ora c'è la fascia protetta. Ma c'è la fascia protetta. Cosa dici? Scusami, Bernarda, scusa un attimo. Ma quelle influencer. Adesso ti ascolto, se ne ho parlato in due. Ok, quelle influencer che vengono da te ogni tanto, ma con qualcuna c'hai delle storielle oppure no? Qualcuna riesce a rimediare? Sono cazzi miei. Si riesce a rimediare, secondo me, qualche volta. Sono cazzi. Qualche bottarella protetta. Qualche bottarella. Se vuoi te ne presento qualcuna. No, non mi interessa, non ho problemi. Per una volta ma figuriamoci. C'è la fascia protetta. Scusami. Almeno una volta. Sì, vabbè, metti meglio il telefono, amico mio. Metti meglio il telefono, togli via voce l'auricolare. C'è la fascia protetta. Togli via voce, bravo, mettiti bene. Fino adesso è stato in via voce. Ecco, sente bene la voce piena. Finalmente. Sì. Scusami un attimo, l'indipendenza della Padania. Ecco, l'indipendenza della Padania. Voglio capire, tu andresti mai a farti curare in un ospedale a Napoli, per esempio, Bernardelli? Col cazzo, noi siamo per le tre macro regioni, col cazzo. Soprattutto io manderei voi due a curarmi in Calabria, perché la Calabria mi sembra la migliore. Allora, per il pubblico che ci ascolta, questo è Bernardelli. Anche a farmi curare negli ospedali della Lombardia, soprattutto a farmi il vaccino, perché il vaccino non c'è ancora in Lombardia. Perché abbiamo quello cinese non omologato. Ma tu sei l'Unione Padana. Ma hai fondato, vedi, siamo Unione Padana. Sì, ma la follia, cioè, è molto più sconcio quello che hai fatto tu in politica, piuttosto che qualsiasi parola venga pronunciata. Quanti partiti hai cambiato tu nel corso degli anni? Almeno io però mi cambio le mutande a differenza. Anzi, io proporrei al ministro Speranza di usare il signor Cruciani come tampone veloce. Noi lo mettiamo vicino, sapete che si perde l'olfatto, e lo mettiamo vicino in coda, uno sente il suo odore, è sicuramente negativo, però lo sente, è positivo, però la proposta è utilizzarlo negli aeroporti. Mi scrive un importante dirigente di Confindustria: caro David, ma chi è sto invasato che si spaccia per associare Andrassa Lombarda, il povero paese? Dai, dimmi l'importante. Povero paese, se questo fa impresa col bicchiere. Dai, Arezzo, ci conosciamo da anni. Sì, importante nome, un importante tutte. Nome di Confindustria, caro David, ma chi è questo invasato che si spaccia per associato? Chi allora, è questo invasato? Allora, fai fare una figura di merda, ministro, all'associazione, te lo dico io. Abbiamo la soluzione del tampone veloce, sì. Usate Cruciani. Sì, non si lava, non si cambia le mutande, puzza. Mettetelo nelle file, mettetelo lì. Sei perso l'odore, sei perso l'olfatto, sei perso il senso dell'odore. Roba incredibile. Ma, e questo sarebbe associato. Scusi, scusi, signor associato di Confindustria, signor albergatore. No, ma non dirlo, fai fare brutta figura a Confindustria. Signor non dire che è associato. Lei non è circonciso. Sono solo belle figure. Lei non è circonciso. Questo lo dici tu, naturalmente. Lei non è circonciso per caso, no? No, non credo proprio. No, non credo, non sa niente, non credo, dice. Lei non è circonciso. No, perché Parenzo, ma lei vuole uscire dall'euro? Lei vuole ancora uscire dall'euro, ad esempio? No, è il suo amico Santini che voleva uscire dall'euro. No, anche tu ci hai dovuto uscire dall'euro. No, carino. No, è che ha fondato talmente tanti partiti. Ma questo è uscito dal cervello. Banalmente, te lo spiego, banalmente. Sai cos'è la Svizzera, i cantoni svizzeri? Sai cosa sono gli Stati Uniti? La confederazione degli Stati. Sì, buonanotte. Buonanotte. Io ti dico qual è il nostro... Scusami, tu per esempio il Cardarelli, tu ci andresti mai? Metteresti mai piede a farti curare al Cardarelli di Napoli? Diciamo la verità, Bernadette, ci andresti? No. Ma tu che sei un uomo intelligente, mi sembra che migrino da Napoli, dalla Calabria e dal sud per venirsi a far curare al nord. Secondo te io faccio il controeso e vado a farmi curare al sud? Cioè, non ti fidi. Ma dove cazzo siamo? Ma allora, voglio dire, vogliamo fare un discorso serio? Fermi tutti, mi scrivi ancora un autorevole dirigente di Confindustria. Riferirò a chi di dovere in Viale dell'Astronomia. Nuoce gravemente all'immagine del sistema questo signore. Quale sistema? Va, fa culo, va. C'ha ragione, c'è. Scusa, c'ha Bernardelli, secondo te, al sud? Aspetta, fermo che comando io. Fermo che comando io qua. Allora, scusami un attimo, ma al sud c'è un DNA diverso rispetto al nord, secondo te? Oh, Bernardo. C'è una storia completamente diversa. No, ma c'è un DNA. Loro sono stati invasi dagli arabi. In Lombardia gli arabi nella storia non li ho mai visti. Sono di essere comunità, ma non vedo gli arabi nella storia, voglio dire, del sud. Hanno una loro storia che io rispetto. Ma che c'azzecco io con un siciliano, fra un siciliano e uno della Val d'Aosta o uno della... Non c'azzecchiamo, abbiamo storia. Io rispetto la loro rispetto. Questo signore mia, fa la l'albergatore, signor Bernardelli. E ospiti, sì, gente, e che viene... ospiti, gente da tutta Italia, tutto il mondo, quindi figurati. Tutto il mondo, certo, benissimo. Ma io vado, attento, io ho anche un'azienda al sud. Pure, per questo pure. Conosco meglio di voi le dinamiche del sud. Che azienda molto è meglio sud. Di voi. Che azienda Vabbè, è ciao Bernardelli, saluto, vai, rotti i coglioni. Ma che cazzo vuoi che abbia? Una vengo, ciao. Sei coglioni sotto. Ma è volgare sto imprenditore. Ma perché così volgare sto imprenditore? La zanzara. Sì, io vorrei spiegare quel fenomeno di Gottardo che il quiffing non è che dipenda dalla velocità dello stantuffo, semplicemente è una posizione di entrata che favorisce l'entrata di aria, per cui l'aria ovviamente dovrà anche uscire. Quindi non c'entra un cazzo l'applauso, non c'entra un cazzo la cavalcata delle valchirie, come la chiami tu, insomma, non capisci un cazzo di figo Gottardo, è inutile che ti atteggi, grand'uomo. Ah, qualcuno. Sì, tra l'altro volevo anche sottolineare che ascoltare Gottardo che si atteggia a gourmet della figa è un gran scopatore, fa davvero schifo. Non credo di essermi mai atteggiato. Senso, schifo, una roba brutta da sentire. Per cui per cortesia, sì, io urlo la verità, @gmail.com. Devo dire la verità, per amore della verità, ha detto semplicemente che in questo periodo scopa, ma non è che ha detto non si è mai atteggiato a grande frequentatore, diciamo, no? Capita persino a me, a me di scopare verità. Quando non ho gente che mi rompe i coglioni battendo sulle porte dell'albergo, insomma, di solito capitava, ecco. Pasqualino da Chieti. Ogni riferimento a Giuseppe Cruciani è puramente casuale. Sì. Tac, tac, Pasqualino, senti, Pasqualino da Chieti. Uno si può chiamare Pasqualino nella vita. Io dico già uno che si chiama Pasqualino. Sì, certo. Pasqualino. Io dico, io mi vergognerei a chiamarmi Pasqualino. Se qualcuno mi avesse dato il nome Pasqualino, io mi vergognerei, caro Parezzo. Cioè, Pasqualino. Cioè, ma uno qui, che si può... Tu devi vergognarti di quello che fai ogni sera qui, non di chiamarti Pasqualino. Vai. Questo è il tema vero. Dimmi, guarda che al sud è molto quotato, eh. Pasqualino, dai, come cazzo si fa a chiamarsi Pasqualino? Uno gira per strada e si chiama Pasqualino, dai, su, Pasqualino. Questo viene insultato, dai, l'ascoltatore, su, per il nome, poveretto, dai. Ma è incredibile la trasmissione. Dimmi, Pasqualino, dimmi. Allora, ti posso dire che se uno si è incazzato mi chiama Pasca. Sì, Pasquali, sento un ritorno dietro, non so che cazzo c'hai, sento un ritorno, Pasquali, non so dove sei. Pasqualino, dimmi, che c'è? Non c'ho niente, né radio né viva voce. Niente, cioè, infatti, sei semplicemente nulla, zero, sei nulla. Testa, neanche in testa. Vabbè, Pasquali, allora, volevo dire a Parenzo che ieri sera ha fatto il commento su dottor Petrella, che era un criminale. Sì, un criminale. Quando ha detto che il vaccino fa diventare sterile. Quindi è un criminale anche Paolo Mieli, che ha detto pressoché le stesse cose. Ha detto che lui il vaccino. Non credo in alcun modo. Guardi. Ah, Paolo Mieli, quando gli hanno domandato te lo faresti il vaccino, ha detto sì, me lo faccio. Però se sono in età, ero in età sterile, aspetterei un momento. Beh, allora? Volevo dire che se un criminale Petrella è un criminale anche Petrella l'hai sentito cosa ha detto? Hai sentito cosa ha detto? Che sicuramente porta alla sterilità il signor Petrella, dai, su. Sì, Paolo Miela ha detto che lui il vaccino se era in età sterile non se lo faceva. Ma non è proprio così. Non l'avete sentito? Sì, adesso l'andiamo a riprendere. Ha detto più o meno se fossi in età, diciamo in età di fare dei figli, adesso non farei questo vaccino qua. Questo effettivamente l'ha detto. L'ha detto in modo soft, però l'ha detto lo stesso. Cioè tu stai dicendo che Petrella è uguale al signor Paolo Mieli, questo vuol dire. No, secondo quello che dice Parenzo. Questa è una questo paragone, cioè, che lei fa. Dice diffamazione, dice. Beh, io fossi nei sì, certo, aggravata peraltro. Vabbè, ciao, aggravata. Ciao, amico, ciao. No, volevo dire un'altra cosa che ha detto ieri lo stesso Parenzo, che ha detto che al figlio di fratellino, che faceva tanto lo sbuffone, dici questo è un magistrato, che gli facciamo fare a questo bambino, che è il magistrato, l'avvocato, ma come lui, nipote di questore, figlio d'avvocato, questore, non no, aspetta un attimo, non ti sei preso una laurea, vuoi aspettare uno del popolo. Ho detto no, voglio che quella persona. Ma io ho avuto la fortuna di vivere tu in un ambiente culturalmente stimolante, quindi vorrei che lui molto stimolante, e quindi culturalmente stimolante, quindi ho avuto più opportunità di altri, quindi vorrei che anche vorrei che anche altri che non hanno avuto la fortuna comunque di fare le letture che ho fatto io, di entrare in casa e avere tanti libri, di vivere in un ma quale lettura? Tu di vivere in un contesto assolutamente. Non mollare, sì, certo, Pasqualino, non mollare, certo, i garretti. Io vorrei che il buon Algero possa anche lui avere delle possibilità, andare a teatro, al cinema, a studiare. Ma questo può essere, ma cosa fa? Gioca con la macchina, fa gli incidenti con la macchina e si fa i selfie mentre guida. Ma perché devi fottere, Gaetano? Perché devi fottere questo bambino, magistrato, avvocato, che gli facciamo fare? Glielo auguro per lui, ma non gli ho augurato di fare il criminale, cioè dovrebbe però guarda, veramente questo posto è il contrario del mondo normale. Ma scusi, professore, lei mi sta attaccando, perché io ho detto a uno, no, ma scusami, fammi dire, ma brutto imbecille ascoltatore, fammi dire, ho augurato a questa persona di fare il notaio, il magistrato, magari il giornalista. Ma non ho augurato di fare un mestiere, non di fare il criminale, manco un sordo muto ti creda, non mollare. Pasqualino, non mollare le caviglie. Pasqualino sette bellezze. Ciao, Pasqualino, ciao, sette ciao bellezze. Mia, quanto vorrei chiamare il signor Librandi. Quanto vorrei chiamare il signor Librandi. Chiamiamolo, dai, mi sono rotto il cazzo. Chiamiamolo, via. Andiamo con Librandi, vai dritto. Pronto? Gianfranco? Sì. Guarda, ieri sono andato via giusto in tempo per non sentire le tue cazzate. Sono Cruciani. No, bravissimo. Cioè, sono andato giusto in tempo. Sono Cruciani. Andato via giusto in tempo per non sentire le boiate. Cruciani, ma sei dimagrito, cosa c'hai? Ti fai troppe pippe. Ma come troppe pippe? Bravo, bravissimo Librando, bravissimo. No, bravissimo. Ma non è che la masturbazione fa dimagrire. Ti stanchi. Ma che teoria guarda, è la tua? Non ho capito che la masturbazione. Stanchi, così. Comunque anche tu andrai a pulire i cessi dei neri. Sicuro. Capito? Perché bravo. Quando vuoi ti faccio un'analisi. Sai la mia azienda? La tua azienda è l'unica, che fa? Una delle pochissime aziende in Italia, in Europa, che quest'anno fatturerà un po' di più dell'anno scorso. Sai dove? Sì, dove? Tecnologia. Sì. Che cosa? Anche tu sei uno sfruttatore dell'Africa. Anche tu vai a colonizzare l'Africa. Io gli do le cose per stare bene. Comunque no, sono più forti di noi. Ma che è sta roba che sono più forti di noi? Ma tu, ascolta, fammi vedere un immigrato che è in ospedale col Covid. Ma certo, sono tutti ragazzi che arrivano qua. È la dimostrazione che arrivano tutti quanti in piene forze. Tu se le spari così, andiamo in ospedale. Ma scusa, andiamo a Varese, Saronno. Ma è la dimostrazione di quello che si dice, che arrivano qua solamente giovanotti in piene forze. Ma scusami, chi supera un viaggio come quello? E perché? Spiegami. Perché secondo la tua grande teoria, perché? Genetica. Esempio, io che sono calabrese, sono più forte. Io l'ho fatto il Covid. Un giorno. Sei più forte di chi? Sei più forte di chi, da calabrese? Non ho capito. Sì, i calabresi sono più forti perché geneticamente. Stai dicendo che al sud chi ha il DNA del sud o dell'Africa resiste di più. Abbiamo il virologo, abbiamo l'infettivologo Librandi. Senti una cosa, noi siamo africani bianchi. Hai capito? E prova a pensare i calabresi, i siciliani, che ne so, i sardi si infettano di meno perché nel DNA hanno il DNA più forte. Ma che è sta cazzata, ragazzi? Ma non si può. Non mi addentrerei. Senatore della Repubblica, sei di Italia Viva, adesso non so che cazzo è. No, io sono deputato, però deputato. Tu che continui a difendere che cosa? Io non difendo nulla. Ma figuriamoci, io sono contro l'immigrazione clandestina e tu a favore, questa è la differenza. Nel 2050, ci saranno 2 miliardi di neri, allora sono 1 miliardo e 2, no? Che dobbiamo fare? Dobbiamo accoglierli tutti? Uno sopra l'altro, sulle coste dell'Africa, verranno qua e tutti quelli che avranno il suo cognome, il cognome di Salvini, di Donzelli, così, li pelano vivi, capito? Perché vi si ricordano di come l'avete trattato? Tu te lo auguri dunque. Ci sarà la grande immigrazione qui. Io sto cercando di difendervi, di aprirvi gli occhi. No, ma l'altra cazzata che hai detto che sono i Rom, che hanno un quoziente di intelligenza alcuni più alto rispetto ai Fratelli d'Italia. Certo, perché tu devi sapere che dentro nei Rom ci sono delle persone di altissimo livello, c'è stato nei campi Rom, guarda, è pieno. Posso dirti che nei campi Rom è pieno di gente di altissimo livello. Guarda, li vanno a cercare dei centri. Ma che c'entra Banderas? Mica stai ancora. Non farmi dire come, no? Come chi? Capito? Come la Meloni, dici? Io non vedo dei Fratelli d'Italia uno che ha preso il premio Nobel, invece degli immigrati ci sono stati persone, hai capito? Quindi mi sembra anche a me, posso dire, caro carissimo, io sono quasi sempre un tantinello eccessivo, però ne capisco il senso di fondo, diciamo. Lui dice, sicuro che un Rom saprebbe fare questa trasmissione molto meglio di noi, anche più educato di noi. Bravissimo. Sicuro, molto sicuro. Nei campi Rom non c'è gente che viene cercata. Quando moriremo? San Paolo è un immigrato. San Pietro, sì, ma non è Roma. San Pietro un Rom? Ma che è San Pietro un Rom? Ma che è sta cazzata? Che è San Pietro un Rom? Andiamo a cercare. Quando arrivi là, dopo ti dicono: è il padre della Chiesa. Tu c'hai solo una opportunità per entrare in paradiso, non bruciare per l'eternità. Ti faccio un tatuaccio sulla faccia di Librandi. A me non me ne frega un cazzo di andare in paradiso. Io non sono credente, non me ne frega niente. Non te frega un cazzo fino a quando non sei lì. Ma tu sei cattolico e credente, a me non me ne frega un cazzo. Sono molto cattolico. Sei pure molto cattolico. Senti, io non ho capito. Tra la, me, tra, me, Meloni e la Merkel, tu da chi vorresti essere governato? Tra la Meloni e la Merkel? Dalla Merkel, assolutamente. Tu, cioè, tu preferisci una tedesca? Ragazza, però, secondo me, è ignorante. Di dire la verità, ha un quoziente complessa, diciamo. Sì, dunque, il quoziente di intelligenza della Meloni è inferiore al quoziente di intelligenza della Meloni, è sicuramente elevato, perché se no non arrivava. Però è inferiore a quello della Merkel. Stavo parlando di quelli fratelli. No, non ho detto che è inferiore. No, ma sto chiedendo. Con la Meloni hai un po' più idea, perché ti capiterà magari di farci una piccola alleanza. Magari può capitare di fare un giro da Fratelli d'Italia nei tuoi diversi, no? Nelle tue diverse caselle. Ascolta, ti potrà capitare di andare da Fratelli d'Italia. Che c'è lì, c'è dentro un po' di tutto. E ti vuoi tenere buona la Meloni, diciamo, no? Diciamo che la Meloni, secondo me, è una che è molto scaltra. Si vuole tenere buona la Meloni perché non si sa mai. Non si sa mai. Ricordati bene, Cruciani, che se vuoi far crescere l'Italia, l'Europa, sì, perché noi tra 20 anni saremo, cioè, tu preferiresti, 500 tu milioni, 350 ci sarà, milioni. Dunque ci sarà. Quindi dobbiamo fare i conti con gli immigrati. Dunque ci sarà nei prossimi governi. Aspetta un attimo, ho capito, ma l'hai detto. Dalla Tunisia, tu mi hai detto che nei prossimi governi sicuramente ci saranno rom e immigrati, questo è sicuro. Rom e immigrati. Ragazzi, aumenteranno Parenzo, di numero. Anche tu. Lo sai, nel Consiglio Comunale di Bruxelles sono tutti immigrati, tutti, vai. E dunque, a vedere. Secondo te alla fine l'Italia sarà travolta dall'onda nera, nera. Noi abbiamo una soluzione, se invece di trattarli come fai tu. Ma io non te li tratti in nessun modo. I vari donzelli, noi facciamo venire, gli insediamo un lavoro, li mandiamo indietro. Sì, questo nel mondo dei sogni. Nel mondo dei sogni, Librandi, nel mondo dei sogni, nel grande mondo dei sogni. Vengono pochissime e il loro PIL cresce dell'8%. Ma sanno perché si faranno i cazzi loro? Non voglio venire in Italia a sentire le cazzate di Librandi. Vengono a sentire, se ti sentono te, Donzelli e Salvini, dicono: ma che cazzo vado in Italia? Fa freddo. Ci sono questi personaggi che parlano sempre male di me. Vanno a vedere tutte le cazzate con le telecamere in ospitale. Ti trattano male, no? Ma roba incredibile, dai, su. Cioè, il quoziente di intelligenza di alcuni. Devi riflettere, devi far funzionare il tuo cervello e capire che alla fine i dati che ti do io sono giusti. Vabbè, comunque, Giuseppe, hai detto un sacco di cazzate, questo è il punto fondamentale. Hai detto una marea di cazzate. Quando vuoi, facciamo un confronto sul tuo quoziente di intelligenza con il mio. Ma cosa? Quoziente di intelligenza mio rispetto al tuo? Ma di che stiamo parlando, ragazzi? No, è come Einstein, non so con chi, ma di che parliamo? Cioè, ragazzi, Giuseppe, il confronto, sto dicendo. Ti voglio bene. Ciao. Ciao, carissimo. La Zanzara. Volevo dire al signor Gottardo che io ho 15 anni che mi fumo le canne tutti i giorni e che io sono laureato, lavoro nel campo medico e a settembre mi iscriverò all'università nuovamente per prendere una seconda laurea. E nonostante tutto è 15 anni che mi fumo l'erba. Gottardo bigotto, miserabile. Ma io non ho capito che problema c'ha Gottardo col Covid, che se lo vuole prendere ci vuole un attimo, eh. Viene con me a fare il volontario del 118 e io lo faccio nel tempo libero, sono bancario, poi la sera vado a portare la gente e lui viene senza mascherina, senza guanti e tempo 2 settimane al massimo ce l'ha, se vuole ce lo porto io. E io me lo sono pigliato ad aprile, infatti, eppure mi proteggevo. Stia tranquillo che lì ce lo pigliamo e poi così lo racconta sul Gazzettino, fa una pagina sul Gazzettino. A lei Tiziano da Milano, però prima ragazzi, dopo l'intervento incredibile di Librandi che sostiene, non so se l'avete sentito ragazzi, cioè, non so se dopo qualche minuto ancora vi è rimasta impressa Mamma mia. Che i calabresi, secondo lui, quelli che vengono dal sud, nel loro DNA sarebbero più resistenti al Covid. Non so se l'hai sentito quel passaggio, sentito, è rimasto impresso. Ma ti voglio segnalare che Librandi ha più o meno le tue stesse idee politiche, la stessa zona politica. Usa iperbole non condivisibili. Poi voglio dire, Librandi, posso dire una cosa, fa perdere voti al centro-sinistra, te lo posso dire. Ogni volta che Librandi va dal signor Del Debbio, sì, sì. il centro-sinistra, diciamo il blocco dei progressisti, il blocco dei progressisti rischia di schiantarsi. Mamma mia, ragazzi, questo come è parli, il come tema, parli, il come blocco parli. Delle, del ma centro-sinistra. Vedi, ci sono le destre e poi c'è il blocco destre, progressista. Si chiama così, le destre. Pazzesco, dai, pazzesco. E cosa sono? Ma sono le destre, come le chiami? E come le chiami tu? Come si chiamano? Chi c'è? Marco da Milano, che avevo chiamato? Marco? Non sai più neanche chi hai chiamato, ormai non mi ricordo più. Sei andato completamente, non sai più niente. Non mi ricordo chi è Eros, Giancarlo, ce ne sono tanti. Tutta chi sta è? Gente, chi c'è? Ma cosa chiama? Marco, sentiamo. Pronto? Dimmi Marco. Senti, ciao. Sì. Niente, volevo riallacciarmi al discorso di ieri col Gottardone, che do 100% ragione al Gottardone, l'unico argomento su cui gli do ragione è la falsa narrazione sul Covid di quelli come Parenzo e gli amici di Parenzo. Cioè, non sono un negazionista, Parenzo. Io il Covid l'ho fatto io da sintomatico, l'ha fatto mia moglie da sintomatica, l'ha fatto anche mio figlio di 10 anni. E dunque? Fare il Covid vuol dire farlo nel 90% dei casi come una comune influenza. Vero. Sei sfigato? Finisci male, ma la narrazione è rovesciata, non c'è nessuna COVID. Narrazione. No, però ha ragione Marco da questo punto di vista. Non c'è nessuna narrazione, non c'è nessuna narrazione. Se sei fortunato ti viene in forma leggera, invece non è così, caro Parenzo, è se sei sfortunato che ti viene in forma pesante. No, ma su questo ha ragione. Non lo puoi sapere. Non lo puoi sapere, ma le percentuali sono chiarissime. Non puoi sapere, sai perché? No, non lo puoi sapere, ragione, perché dipende ragione dalla reazione che ha sul tuo fisico. Ci sono persone sanissime che ad esempio l'hanno avuto, sono dice, finite anche in terapia intensiva. No, ma lui dice una cosa. Allora, non è una questione. Ma ti ha fatto un esempio? Di... Ti ha fatto un no, esempio? Ma io detta tutte così le mattine vado in ufficio in scooter. Se arrivo in scooter sano non sono fortunato. E se faccio un incidente che sono però, sfigato, la narrazione che state facendo però del COVID, mi scusi, è una c'è una piccola particolare, il traffico c'è tutti i giorni, la pandemia c'è una volta all'anno, no, anzi una volta ogni mille anni per fortuna. Ma c'entra l'approccio che lei ha rispetto al fenomeno, è esattamente diverso, il mio e il suo, per fortuna abbiamo due visioni diverse, io non dico ma che lei è uno stronzo, COVID, tutta ma la sua io non mi ha avuto permetto di dire che è uno stronzo, no, se lo dicessi lui potrebbe attaccarmi, non dico che è uno stronzo. Invece di terrorizzare lui ti dice che si il rischio vero, ma nessuno terrorizza, il rischio è minimo, nessuno questo state, io posso dire una cosa, io non ho paura, nessuno per terrorizza me. Abbiamo fermato intere economie, ma nessuno terrorizza, ma ragazzi, ma c'è gente che abbiamo fermato il mondo, la ma Merkel, c'è gente che viene in terapia intensiva, nessuno terrorizza, ma guardate la Merkel cosa ha detto, appunto, ma guarda la Merkel milioni cosa ha detto, ma non è che ha sempre ragione, la Merkel, 500 persone al giorno in Germania, 2005 muoiono. E quindi giorno. Cos'è e una media una roba accettabile? Quindi è accettabile allora, che muoiano? Noi abbiamo i 500 morti di Covid e gli altri 2005 sono stronzi. Il 1.400.000 screening oncologici è un mondo che impazzito secondo lei, quindi secondo lei è un mondo impazzito. Secondo lei è impazzito. È un mondo esattamente impazzito, tutto il mondo, tutto il mondo. Esattamente come dire, Negru ha fatto fermare una partita in Germania, i casi sono quasi 30.000. Ma cosa c'entra? Ti sei c'entra? Ma non muoiono 30.000. Ciao, spiega 30.000 David. Ciao Marco, grazie, ciao. Allora ragazzi, in Piemonte via libera la caccia nonostante i divieti anti-Covid, quanto godo ragazzi. Ma stato questa... di necessità. Che bisogno la giunta c'è di centrodestra caccia, però io non autorizza so a sparare da e oggi anche c'è fuori dal proprio comune, e giorno di c'è Santo Stefano compreso. Sì, perché è un'attività che si può fare, qual è il problema? E qual è il problema? Non ho capito. Cioè, ma che bisogno c'è? Abbattere la fauna selvatica è uno stato di necessità e quindi per farlo è possibile uscire dal proprio pare comune anche nei giorni in cui è vietato, sparando liberamente. Cose, mi certo, pare una sciocchezza, si può veramente sparare a cinghiali, cervi, caprioli, cornacchi, attività all'aria aperta, dunque non c'è possibilità, eccetera. Io chiamerei il signor Caporale su questo. Il signor Caporale. Te lo ricordi, Caporale, vecchio animalista, Caporale? Beh, chiamiamolo, ragazzi. Caporale, sì? Dove stai? Sono Cruciani, dove stai? Sono impegnato, che c'hai? Che stai a fa? Sono impegnato, dimmi. No, e volevo darti una notizia. Dimmela. Che in Piemonte, mm-hmm, beh, notizia fondamentale, sulla caccia. Dimmi un po', che hanno combinato i piemontesi, i torinesi, che sono gli abitanti di una delle città più belle del mondo. No, aspetta, Piemonte, via libera alla caccia nonostante i divieti anti-Covid, è uno stato di necessità. La giunta di centrodestra autorizza a sparare da oggi anche fuori dal proprio comune, giorno di Santo Stefano compreso. Capito? Ma tu pensa, Cruciani, dunque noi siamo costretti a non vedere i nostri genitori, le nostre mamme, le nostre nonne, i nostri figli, sì, i nostri nipoti, non possiamo forse uscire dal nostro comune, e invece gli assassini, criminali, cacciatori, bastardi sono autorizzati ad ammazzare esseri viventi durante il Covid, alla faccia del Covid, di 800 morti di oggi. Ma che c'entra? Ma che c'entra con la caccia? Cosa c'entra con la caccia, caporale? Per una volta, Cruciani, per una volta sì, un po' onesto con te stesso. Aspetta, avvicina la bocca al suo cellulare. Avvicina la bocca al suo cellulare. Cruciani, nel momento in cui noi non possiamo vedere i nostri genitori, i nostri nonni, io sono abruzzese, lavoro a Roma, non posso vedere mia mamma, non posso vedere i miei nipoti, non ci possiamo muovere, faremo il Natale da soli, allora, il Capodanno da soli. Che c'entra con la caccia? Stai da solo! I tribunali ad ammazzare degli esseri viventi, ma tu ti rendi conto che stanno fuori di testa? Sono dei criminali, ma tutti i politici che autorizzano queste cose. Io non ho capito una cosa, che cosa cazzo c'entra il Covid con la caccia? Cioè, Scusami, ma tu stai fuori di testa o per una volta puoi essere un po' onesto col mondo? Cioè, nel momento in cui si parla solo di Covid, tutti i TG parlano solo di Covid, gli italiani parlano solo di Covid, siamo terrorizzati dal Covid, una regione di merda autorizza i cacciatori ad ammazzare fuori città gli animali e tu pensi che sia una cosa normale e logica? Ma certo, almeno un po' di svago, la gente va in campagna, si svaga. Lo svago dovrebbe andare a stare con i propri genitori, con i nonni. Ma lo dici tu qual è lo svago? Per i cacciatori lo svago è andare in campagna a sparare qualche colpetto, dai. Bravissimo, ma così come per i pedofili lo svago è andare a violentare i bambini, a stuprarli, così come per i signorini che uccidere le persone. Questo mi pare un paragone un po' assurdo, però mi scusi. Dicendo cose allucinanti. Cioè tu stai paragonando. Non essere stupido. Stai paragonando i cacciatori ai pedofili. Vergognati. Ma vergognati tu che pensi in un periodo di Covid di paragonare, di dire che è corretto che i cacciatori possano uccidere animali. Ma certo, ma quello sempre. Ma certo, normale. Tutto vietato. Io credo che sia allucinante. C'è tutto vietato poi dal nostro comune. Tutto si è vietato tranne che uccidere altri esseri viventi. Non esagerare, io non ti paragono a un uccello, amico mio, non ti paragono a un tordo, non ti paragono a un fagiano. Io ti paragono a un cane e mi fate offendo il cane. Ma il cane infatti non si può ammazzare, infatti il cane non si può cacciare. Comunque io non sono. Senti un po', Cruciani, per me è vergognosa questa cosa di permettere di uccidere fuori dal proprio comune per divertirsi, per svagarsi. Certo. In tempo di Covid. Ma come, rischiamo la pandemia, rischiamo l'estinzione di massa, pensiamo a permettere a spazio coglioni di andare ad ammazzare esseri viventi. Ma qui siamo alla follia pura. Qui anche lo sai che ci sono un sacco di donne? Sai che ci sono un sacco di donne, sempre più donne cacciatrici che vanno a cacciare, donne cacciatori e cacciatrici. Le donne vanno a caccia, le donne vanno a caccia perché loro fanno finta di sparare gli uccelli e poi se lo perché poi vanno a fare l'amore con i cacciatori, è logico, no? Ma che cazzo, volgarità inutile. Vanno a caccia di altri uccelli, dici? La donna non cerca l'uccello morto, la donna vuole l'uccello vivo, caro Cruciani, è logico, sennò che ci va a fare a caccia? Ci sono un sacco di donne che vanno a caccia perché sono figlie di cacciatori hanno la passione della caccia. Vogliono l'uccello vivo, altro che l'uccello morto, vanno a caccia l'uccello. Che stupidaggine. Comunque posso dire una cosa che di quello che fa, per me è vergognoso che tu non ammetti che per questo permesso è indegno. Ma per me tutti i permessi, per me tutti i permessi vanno, questo per me... permesso sarà bocciato dal TAR e dalla consulta. Ma non lo so, TAR, la consulta, che me frega. Certo, in un periodo di Covid. Senti, ma che ne parli delle pellicce? Che ne pensi delle pellicce tu, amico mio, delle pellicce? Se noi usiamo le pelli umane, possiamo pure discuterne. Se usiamo le pelli animali, diciamo che forse è una follia. E la mia è una battuta. Un bel visone, bellissimo il visone. Da 30 a 60 animali, visoni, per permettere a una bestia di indossarla. Mi pare che sia meglio che quei 30 a 60 visoni vivano. Il visone ogni tanto viene allevato, viene ucciso per fare una pelliccia di visone, stupendo, meraviglioso. In Danimarca hanno ucciso 2 milioni di visoni. Beh, certo, c'erano il coronavirus. Qual è il paradosso? Che adesso pare che questi animali morti siano inquinanti per fare d'acquifero della Danimarca, così magari con rischio che qualche migliaio di persone muoia. Comunque, guarda, posso dirti una cosa: io non ti paragonerò mai a un visone. sono inquinato le fabbriche. Vabbè, ma io non ti paragonerò mai a un visone. Tu sei un essere umano, gli animali sono animali, è una cosa diversa. Così come essere viventi, visone, essere viventi. Così come sono quegli animali. Comunque sappi che quella decisione ignobile, volgare, indegna e legittima del Piemonte verrà rispettata. Vedremo, speriamo di no, speriamo di no. Non è possibile ammazzare poi ciao, la propria Caporà, ciao, ciao. Addio. Addio, addio, Caporà, addio. La Zanzara. Mi trasferisco a Milano 2 anni fa dopo 8 anni di fidanzamento. 2019 ne trombavo una al mese, 2020 un anno chiuso in casa. Nei DPCM neanche una menzione per noi single. Il governo ci deve dare la scopata di quarantena. La scopata di quarantena! Giuseppe, qua la storia non va bene. Sono giorni che non dormo, ho perso dei chili, mi è passata la fame. Io voglio sapere, esigo di sapere, se Esther da Milano le scorreggia la figa, sì o no? Buonasera! Gianni, oltre al quiffing, un'altra categoria che va parecchio su Pornhub è il lactating, ovvero allattamento. Mamma mia. Tiziano da Milano, fra poco un grande ospite che ci chiederà alcune cose. No, no, devo non ti devi preoccupare. Questa volta non ti devi preoccupare, mi un grande, grandissimo. Non mi devo preoccupare. Tiziano da Milano, vai, veloce, dimmi, dimmi. Gottardo. Sì. Eccolo. Gottardo, lo sai come ti chiamano a te a Milano? Come, un barlafuse, un barlafuse, barlafuse, che vuol dire? Barlafuse, perché parli senza sapere un cazzo. Sì. A proposito di che, spiegami. Sai perché sei meno bigotto sul sesso? Perché l'hai provato e ti piace. Sulla droga invece non capisci un cazzo. Sì, non è che bisogna provarla. Non l'hai mai provata. Non è che bisogna provarla per forza, per capire non bisogna provarla per forza. Tu che parli che di fattuale. Tu prima hai detto è fattuale. Vabbè, allora che la marijuana dire? Volevo dire che tutti i paesi in Europa si stanno adattando, tanti paesi la marijuana è legale, eppure in Italia l'Italia è il paese con consumo di cocaina più alto d'Europa. Sì, incredibile, no, ma uno dei più alti al mondo, non in Europa, come uno dei più alti al mondo, credo il che Canada, sia il terzo, credo che sia il terzo Canada dopo Stati Uniti e Canada. Il Canada nel 2018 era il paese con più consumo di cocaina al mondo e marijuana. Da quando la marijuana è legale è diminuito tutto, è calato tutto. Come me lo spieghi? Vabbè, ciao Tizia, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo in collegamento, signori miei, un grandissimo esperto, come posso dire, il professor Damiano, un urologo, io vengo da una famiglia di urologi, posso capire. Buonasera, dottor Damiano, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, grazie. Allora, dottor Damiano, mi deve spiegare una cosa. La prima domanda è questa, dottor Damiano. Oggi ho letto che da un'università, l'Università di Sheffield, sostengono che la trasmissione del coronavirus può avvenire anche attraverso lo sperma. Dicono forse, può darsi... Mamma mia. Lei mi può dare una risposta da questo punto di vista? È possibile che si possa trasmettere con lo sperma? Non credo, ci dobbiamo preoccupare? Ad oggi non esiste alcuna evidenza sulla trasmissione del virus da spermatozoi a ovociti, però l'attività sessuale è la condizione a più alto rischio di contrarre il coronavirus. Ah, attenzione, cioè lei sta dicendo che il sesso è altamente a rischio, perché è chiaro che c'è il contatto fisico, la respirazione intensa, lo scambio di effusioni di baci che possono favorire la trasmissione del virus. Dunque, ma la malattia non è una malattia trasmissibile sessualmente. Ancora, scusi un attimo, professore, però se io dico una cosa, fosse per lei, uno oggi a prostituta non ci può andare, per esempio. Ma mai bisognerebbe andare. Assolutamente, bisogna andare solo, fare sesso soltanto con il partner con cui si convive. Questo per forza. No, certo. Però scusi, però uno dovrà, ha ragione Gottardo da questo punto di vista. Lei è giusto che dia queste indicazioni. È giusto che dia queste indicazioni. Però una persona oggi, se si vuole un po' divertire, se non vuole proprio morire, un single, come fa? Scusi. Lei allora consiglia la masturbazione per un single? Assolutamente, quello che posso consigliare è fare un'attività sessuale con un partner con cui si convive stabilmente. E se uno non convive con nessuno? Se uno non convive con nessuno? Essere sicuro della non contagiosità dell'altro partner. E se uno non è sicuro, cioè un incontro è un rischio di contrarre il coronavirus. Dunque lei consiglia, uno, diciamo, l'onanismo. No, un libro, leggersi un libro, anche guardare un film su Netflix, sulla 7, su Amazon, dove ti pare. Cioè rinunciare a un'alternativa, non rischiare di avere un contagio con una persona di cui non si sa la positività o meno. Eh certo, uno no, si guarda la regina degli scacchi. Però vedi com'è preciso nelle dichiarazioni, sì. Cioè non, allora, non sgarra di un solo, dice preciso, io posso essere preciso anch'io, sì, con il professore. Sì. Senta professore, si metta nei miei panni. Io ho 44 anni. Mania, ho appena scoperto la toppa. Ho una grande probabilità di non contrarre i sintomi del coronavirus anche nell'ipotesi in cui io contragga il coronavirus. Non ti incartare, però. E invece ho di fronte una donna con un'altissima probabilità di darmela. Io dovrei rinunciare a una trombata per una remota possibilità di avere dei sintomi comunque blandi, vista la mia età? Risponda a tono, professore, risponda a tono. Io eviterei, fossi lei eviterei. Ma mi dispiace di dirlo, ma però eviterei. Professore, molto lei non chiaro, sa che il soggetto chiaro è un mostro, siccome gli capita una volta ogni tanto. Mostro, ha parlato il bello, ha parlato siccome il soggetto no? È un mostro. Non può resistere. È un mostro, quindi gli capita una volta che pesca il jolly e lì è giustamente. Allora, però, se la professor gioca. Damiano, è quello che ha fatto l'indagine sui testicoli, quello è fondamentale. Cioè, se uno contrae il virus, passiamo all'ipotesi opposta, diciamo, non il rischio, la possibilità, vediamo, uno prende il virus. Ci possono essere dei problemi ai testicoli, non mi dica questa cosa. Mi spiego, una volta che il virus si lega a una proteina vicino ai testicoli, entra all'interno del testicolo e dà un'infiammazione. Infiammazione altera i due prodotti del testicolo, altera la qualità e la quantità del liquido seminale e sovverte gli ormoni sessuali maschili. Quindi danneggerà la possibilità di procreare, perché altera la qualità e la quantità dello sperma, oltre che determina una riduzione del desiderio sessuale, perché riduce i livelli di testosterone mentre leva altri ormoni, scusi, come la prolattina. Scusi professore, però lei mi sta dicendo una cosa drammatica, cioè, nel senso che c'è una possibilità, adesso non so quantificarla, che se uno prende il Covid, uno sostanzialmente cala la libido, sostanzialmente, e l'altro non può nemmeno più procreare. Cioè, sì, questo... Ma mentre è sintomatico, sì, mentre è dici, sintomatico, sì, mi auguro. No, ma no, okay. Conto che noi siamo abituati a ragionare col virus perché dà un impatto sull'apparato respiratorio, esatto, e ce ne accorgiamo subito. Il problema è che quando il virus attacca l'organismo dà danni in tanti organi e apparati, di cui il riscontro avviene nel tempo. La prima cosa che vediamo è il paziente che ha difficoltà a respirare, ma dobbiamo anche verificare che non abbia colpito i testicoli e possa dare nel tempo sequele, danni sull'attività produttiva e sull'attività sessuale. Ma l'avete verificato il fatto che si insinua nei testicoli sto coronavirus? Sicuramente. Tenga conto che la presenza del virus nel liquido seminale ha un dato intorno al 15%, che è un dato molto cioè 15% minuttivo. Dei pazienti è stato i pazienti affetti da infezioni da coronavirus, nel 15% dei casi hanno il virus anche nel liquido seminale, che è un prodotto dei testicoli. Però adesso questa cosa qui, adesso oggettivamente mi fa venire un terrore tremendo, però questa cosa non terrorizza, anche questa cosa non terrorizza Gottardo, secondo me. Cioè, ma perché nell'85% dei casi non ce l'ho nei testicoli, ok? Però è un dato molto limitativo, è un dato molto riduttivo, ricordo al professore, più elevato. Ricordo al professore un dato che ho detto poco fa. Gottardo è un signore di 44 anni che ha appena scoperto, qualche mese, la bellezza delle donne. Avendoli scoperti così tardi. Io ne ho 44. Avendo scoperto così tardi questa cosa che invece noi normali abbiamo scoperto in età più giovanile, possiamo essere più razionali ed eventualmente guardarci un film su Netflix anziché. Senta, professore, buttarci. Però c'è una cosa che voglio chiedere: la pornografia, cioè vuol dire, i film porno. Allora, il film porno è un altro dei problemi importanti, perché problemi? Sono io ho l'evidenza che più guardo materiale pornografico più rischio di avere un fallimento sotto le coperte, perché una visualizzazione eccessiva e prolungata di materiale pornografico crea le condizioni per una disfunzione erettile. Ma veramente sta dicendo? Molto, sì, le racconto questa vicenda che è molto interessante, per uno studio presentato al Congresso Europeo di Urologia quest'anno che ha evidenziato come le persone che hanno una eccessiva e prolungata visualizzazione di materiale pornografico, parliamo di 70 minuti a settimana, 70 minuti a settimana, più di una settimana, possono manifestare nel 25% dei casi una disfunzione erettile. Sono fottuto, ragazzi. E le voglio raccontare delle cose ancora più interessanti. La ricerca ha fatto vedere tre aspetti che ci fanno molto riflettere. Cioè? Un terzo di questi pazienti preferisce la visualizzazione del materiale pornografico al sesso del proprio partner. Addirittura. Il 90% di questo campione, di questi che vedevano più di un'ora di materiale pornografico alla settimana, preferivano il virtuale, diciamo, al sesso col partner. Sì, ma poi la cosa drammatica è che virtuale con pippa, diciamo, con masturbazione, immagino. Lo sappiamo. Sono i dati importanti, perché queste persone preferiscono il 90% guardare le scene sessuali pornografiche, quelle più eccitanti. E tra l'altro il 20% di queste persone ha dichiarato che riesce ad eccitarsi solo in presenza di scene sessuali estreme di cui nella vita reale poi non ne hanno disponibilità. Però adesso io, per chiudere, lei ci sta dipingendo un quadro drammatico della situazione, perché in questo periodo se c'è molto più consumo di film porno rispetto male, a prima. Fa male. Beh, ho capito, fa male, lo so, però sono 70 minuti, poi. Ho capito, ma fa male che cosa? Fa male, immagino, associato alla masturbazione. No, e poi fa in male perché il nostro cervello si abitua a questi stimoli, a queste immagini estreme. E dunque non tira e più. C'è una sostanza nel cervello che si chiama la dopamina, che poi questa sostanza eleva il livello di eccitazione. Quindi nella vita normale, con la normale partner di casa, non riusciamo a eccitarci come ci siamo eccitati vedendo questo materiale. E quindi poi facciamo flop sotto le coperte. Capito, David? Cioè, non so se tu hai avuto esperienze recenti da questo punto di vista. Io ho detto che siccome non uso guardare questo tipo di filmati, guardo tu le serie salvo, su Netflix. Dunque sei salvo, credo, diciamo, di essere salvo, ma insomma questo non è un problema di per sé. È incredibile, è incredibile. Sé, comunque, grazie professore, grazie. Ecco. Buona serata. Buon Natale, buon Natale. A me, sai che cosa è piaciuto del professore? Che lui non si è, capito, non si è scomposto in un secondo. Ma certo. Non si è scomposto in un secondo. Ma sai cosa piace? Che sono le 20:49, quindi stai per dire. Ma vaffanculo, va. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.